later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli non circola anima viva, Kappa e Drago finiscono a parlare del destino. Mamma, che tosse. Ma no, ma Kappa. Ma vabbè, perché ma... tutta questa tosse? Drago, dai, Drago. Girati, tu girati quando tossisci così non ti almeno... sei mai chiesto perché proprio io e te? Io e te cosa? Io non ce l'ho la tosse. Perché proprio... No, ma che tosse? Perché proprio io e te siamo finiti dentro una fabbrica di polli dove è sempre mezzanotte? Perché io e te? Scusa, che domanda è? Che non domanda c'è è? Non c'è mica un perché, cara. No. Dai, no, ci siamo persi nella nebbia ed eccoci qui. Vabbè, ma chi si è perso? Noi due, mica altri due. Vabbè. O mica uno da solo. Noi due. Vabbè, ma cosa vuol dire? Bravo, dai, eravamo distratti, calata la nebbia, abbiamo preso l'autostrada contromano, abbiamo quasi rischiato di ammazzarci e ora eccoci qua. Il caso, Kappa, il fatto, il destino, chiamalo come vuoi, è quello. Tu sai cosa ha dato Napoleone a Giuseppina per il matrimonio? No, ma cosa c'entra, scusa? Le ha regalato un medaglione d'oro e dentro c'era incisa una parola, destino. Va bene. Pensaci, Drago, pensaci. Le onde del destino. Le nozioni di primo di classe. Le onde del destino, film di Lars von Trier. Trama, giovane und ingenua Bess si innamora di Jan, che lavora su piattaforma petrolifera. Il loro matrimonio è felice, ma Jan deve trascorrere lunghissimi periodi di tempo sulla piattaforma in mezzo oceano, lontano di sposa. E Bess, straziata dalla nostalgia, prega perché marito possa tornare per sempre accanto di lei. E suo desiderio di preghiera si avvera, perché in seguito a incidente che un palo in testa va a Jan, Jan, con testa fracassata di palo, resta completamente paralizzato. Tutto fermo, non fa niente. Lars von Trier, se vai a vedere, assomiglia molto a una persona che io e te conosciamo molto bene, Drago. Ti sembro uno che sa che faccia Lars von Trier? Drago, è uguale al direttore Valsania? No, ma allora, scusa, non vorrei mica dire che... Valsania non è altri che... Che? Lars von Trier! Presto, tenente Drago! Dobbiamo riscrivere la storia del cinema partendo dall'assunto che il famoso dogma non è la creazione di un regista nato a Copenhagen nel 1956, bensì di un giornalista, scrittore e direttore editoriale nato a Firenze nel 1951. Ma è semplicissimo. Basta cambiare la voce Lars von Trier su Wikipedia e fare copia e incolla da una biografia di Valsania qualsiasi. Ma cosa dice? Tenete Drago! Dobbiamo andare su Google e oscurare tutte le pagine che citano Lars von Trier! Poi procederemo alla riscrittura della verità e rimetteremo online quelle pagine! È chiaro? Ma che sbatti! Cosa? È uno sbatti! Uno sbattimento! Tenente Drago! Tutto è uno sbattimento nel mondo! Tenente Drago! Ma alla fine, comandante Kappa, chi se ne frega se Lars von Trier in realtà è Valsania? Ma è una notizia sconvolgente! Chi poteva aspettarsi che il fantasioso direttore della fabbrica di polli e il melodrammatico regista danese fossero in realtà la stessa persona? In effetti... La fabbrica di polli... È strano, scusa, Valsania è sempre stato interessato alla fantascienza, a Philip Dick, al fantasy. Lars von Trier invece è tutto il contrario. Scusa, i suoi film non hanno nemmeno la colonna sonora perché sennò infrangono il dogma. Nessun effetto speciale, nessun flashback, nessun trucchetto. Ma lo fa per confondere le acque. Si vede che fare il direttore della fabbrica e il regista allo stesso tempo non gli conveniva. E allora si è creato due identità distinte. Ma come? Ma è sposato con due donne? Vabbè, io non scenderei in curiosità di così dubbio gusto, capo. Ah, sì, dubbio gusto, certo. Ha parlato la regina Elisabetta. Remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. Ma se Balzania è Lars von Trier, Björk e Fiorello sono fratelli? Già, e che legame c'è tra Baldini e Catherine Deneuve? Certo che gli interrogativi fioccano. Quando sollevi un pietrone come questo, non ti devi stupire del formicaio che trovi sotto. E se ti fai cadere il pietrone sul piede, non ti stupire se ti fracasso le falangi. Il pollo di Pollock, nel senso di Jackson, abita nascosto nel dipinto blu. Il pollo di Pollock, nel senso di Sydney, vive mascherato nei tre giorni del condor. Il pollo con l'Apollo, nel senso di maglietta, è fratello di Licia, attore pure lui. Il pollo sull'Apollo, nel senso di Volkswagen, è appeso nell'unotto della macchina del popolo. Siamo in ogni angolo del mondo. La fabbrica di polli. Aspetta, Reg, cosa stai leggendo? Elon Hubbard. Non Howard, quello di Epidemis. Elon Hubbard. Ma no, Scientology. Ma Tarek, sei impazzito? Scommetto che quel tossico fallito del Polo Pasta a farti leggere sta robaccia. E chi è Polo Pasta? Ma ciula che non sei altro, cos'è sta storia di Scientology? Volete diventare come Tom Cruise? Polo Pasta. Guardate che le sette vi fanno marcire quel poco di cervello che avete. Uè, appiantatela subito. Guardate che io ho perso tanti amici negli anni 70, Un po' a causa delle droghe e della politica. E poi anche a causa delle sette. Perché noi eravamo una generazione che aveva bisogno di credere in qualcosa. Il catechismo non ci piaceva. E allora niente chiesa cattolica, Il comunismo e il fascismo ci piacevano. E allora giubbotte in nome delle ideologie, Sì, beato te, Tarek, che non capisci niente. Perché poi, dopo che comunismo e fascismo sono andati in pensione, ci siamo trovati lì a 30 anni senza niente cui credere, Allora sono arrivati Hare Krishna, e i bambini di Gesù, e Scientology, e tutte quelle robe lì, Ma non va mica bene, no. Perché è d'accordo che siamo polli, però il pollo di oggi si rifiuta di credere in queste cazzate, E tu stai zitto, che prima avevi la dipendenza da Ecstasy, adesso ce l'hai da Scientology. Bamba, in quei gorghi lì fai presto ad entrare, ma poi fai fatica ad uscirne. Hai capito, ciula, che non sei altro? I miei amici sono diventati tutti imbecilli, dal primo all'ultimo. Una fila di imbecilli normalizzati d'apparenza, ma con una doppia vita assurda, La vita fuori dalla setta e la vita dentro la setta. Fuori dalla setta sembrano anche normali, ma poi quando stanno lì, tra adepti, si comportano in modi non incomprensibili, State lontani da queste cose, Che voi due siete psicolabili, e si fa presto a fare i fessi. Che cosa succederà adesso? La già scarsa poltiglia cerebrale di Tarek e del pollo pasta subirà un'ulteriore riduzione a causa delle finte religioni americane? E se sì, il livello di intelligenza medio in fabbrica diminuirà o aumenterà? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo scientologico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Good night, children. Good night and good luck to you all.